Cari amiche e cari amici, buonasera, bentrovati, Radio Alma, Maridia, ai microfoni per voi in un'occasione molto molto speciale. Siamo felici di essere qui questa sera presso la Monte dei Paschi di Siena, che ospita il vernissage di Paola Cenci. Paola Cenci è un'artista poliedrica, io l'ho appena scoperta e, come sapete, il mio amore per l'arte, sono rimasta piacevolmente sorpresa perché sono tante le tecniche che utilizza. Ma prima di passare ai dettagli, Paola, ci racconteresti un po' di te e soprattutto da dove nasce la tua passione per l'arte? Certo, allora io da quando mi ricordo ho sempre avuto un amore per l'arte. Ho iniziato a dipingere quando avevo 14 anni e ho iniziato ovviamente con degli stili abbastanza classici. Poi mano a mano mi sono evoluta, ho vissuto in varie parti in Germania, adesso vivo in Belgio, varie parti d'Italia, e da ogni posto dove sono stata ho preso qualcosa. Per esempio io dipingo anche quadri abbastanza classici che sono in naïf, e ci sono molti paesaggi tedeschi, olandesi, perché noi vivevamo lì, adesso ci sono quelli italiani anche perché viviamo a Bracciano, per cui ora dipingo anche quelli. E tu sei un artista polivalente, perché ho notato con piacere che ti occupi di tante materie, dipingi sul legno, poi vediamo altre cose, mi spiegavi prima delle parole che per me sono un po' nuove, quindi magari poi ne riparliamo. Da dove nasce questa tua esigenza di polivalenza? Perché immagino che per te sia anche una scommessa metterti ogni volta in discussione. È proprio questo, hai centrato proprio l'obiettivo, nel senso, per me è una sfida. Normalmente io uso tecniche diverse per soggetti diversi, perché il mio scopo principale è rappresentare anche soggetti abbastanza usati in arte, come per esempio i nudi di donna, utilizzando delle tecniche diverse che rendono il quadro in sé originale. Ad esempio i nudi di donna adesso io li sto realizzando con il legno, con delle strisce di legno dove non c'è un vero disegno, però il disegno nasce, il disegno è anche la figura della donna sensuale, morbida, esce solo dall'accostamento delle varie strisce tra di loro, vicine. Per cui quando uno poi le vede in lontananza dà l'idea di questa donna sensuale. Allora, hai detto che lavori in legno, però so che lavori anche altri materiali. Magari ci puoi descrivere di queste differenti attività? Allora, essenzialmente i miei stili sono quattro, quindi quadri in legno, quadri materici, quadri polimaterici e quadri naïf. I naïf, abbiamo già detto, sono quelli più classici tra i quattro. I quadri in legno sono questi appunto fatti con del legno intagliato, smussato, riassemblato, normalmente sono solo forme rotonde, morbide, sinuose. Il polimaterico utilizza vari materiali che possono essere per esempio stoffa, legno o comunque, e assemblati insieme magari su vari livelli per dare anche in questo modo una rappresentazione originale di un soggetto che potrebbe essere appunto la donna. Poi ci sono i quadri materici, dove praticamente sono dei quadri dove il colore viene addizionato a delle malte, delle inclusioni, dei pigmenti puri in polvere oppure degli acrilici, e l'effetto è un effetto ruvido. Io li chiamo quadri da toccare, nel senso che oltre ai cinque sensi, e soprattutto per cinque sensi, diciamo, per i quadri la vista è quella che viene utilizzato, si può utilizzare il tatto, perché toccare un quadro secondo me è bello, dà una bella sensazione. E toglimi una curiosità, ci sono artisti che ti hanno influenzato nel tuo modo di essere artista? C'è qualche punto di riferimento ai quali pensi quando, diciamo, crei? All'inizio io sono stata molto influenzata da un artista che si chiama Donnello Palloni, che ormai purtroppo è scomparso. Era il parroco della mia parrocchia, per cui io da piccola vedevo questi quadri bellissimi. Lui dipingeva in uno stile futurista e anche un po' materico, tra l'altro. questi quadri enormi, bellissimi, e io ogni volta che li vedevo rimanevo incantata, stavo lì. Io credo che lui mi abbia molto influenzato in questo, sì. E se c'è un messaggio invece che vorresti rivolgere ai giovani artisti, a coloro i quali scoprono questa vocazione, perché io credo che l'arte sia un po' una vocazione, ciascuno ha la propria, ma io invidio profondamente gli artisti per questa capacità di saper rimmaginare il mondo e la sua quotidianità. Però c'è un messaggio che daresti ai giovanissimi che sono in ascolto e che pensano di intraprendere attività artistiche? Io direi di perseguire la propria passione. Non è un ambiente facile, nel senso che la concorrenza a volte è spietata, ce n'è molta, però se uno ha questa passione dentro dovrebbe far di tutto per riuscire ad esternarla comunque e magari possibilmente coinvolgere gente che possa apprezzarla. Dicevi che hai vissuto in differenti luoghi, che hai vissuto anche in differenti paesi. Ci sono elementi che ti hanno colpito, per esempio in Italia piuttosto che in Belgio o in Olanda, peculiarità che poi sei riuscita anche a riprodurre artisticamente? Beh, diciamo appunto in Germania e in Belgio più che altro i paesaggi, la tranquillità. Dell'Italia, ovviamente l'Italia si sa che ha tanti input artistici, per cui io ho vissuto a Pisa, ho vissuto a Firenze, e ovviamente quando uno è completamente immerso nella bellezza viene volente o nolente influenzato, per cui io spero di aver assorbito il buon gusto italiano, diciamo. Allora, ricordiamo che noi questa sera siamo alla Monte dei Paschi, che la mostra di Paola sarà praticamente possibile visitarla fino al prossimo 28 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 15. Vi ricordo anche che la Monte dei Paschi è situata presso Rue Joseph de 24 a 1000 Bruxelles. E voglio anche segnalarvi l'indirizzo email di Paola, che è cenci_paola@libero.it. Possiamo anche ricordare il sito per quanti fossero interessati, e veramente vi invito caldamente a darvi uno sguardo, ritroverete delle cose che almeno io non avevo mai visto prima. www.quadriarredo.altervista.org. Paola, noi ti ringraziamo di essere stata qui con noi questa sera, ovviamente ti auguriamo tutto il meglio e anzi ancora di più. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie. Buona serata, a presto.